Un bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, The Oracles. Sono 98.6 per la bassa veronese zona della Lessinia, 101.5 per Verona città rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.7 per la Val dell'Adige. RCS naturalmente si può ascoltare anche in streaming sul web dal sito radioRCS.it. Negli anni 70 alcune formazioni beat inglesi sopravvissute avevano trovato nuove formule musicali rock e la prima canzone ne testimonia il cambiamento. I Moody Blues, che abbiamo ascoltato con The Story in Your Eyes dal disco Every Good Boy Deserves Favor del 1971, già dal 1967 percorrevano la via del prog rock sinfonico. La musica di questa band sembra davvero non avere nessun difetto, tanto è perfetto e l'innesto nelle varie parti musicali. Cosa ne pensate? Beh, sono dei padri musicali, no? Di questa tipologia di genere, anche se noi non ci affianchiamo completamente, proprio perché probabilmente è quasi troppo perfetta. Ad ogni modo, grande rispetto per una band del genere che poi ha aperto la strada a tantissime altre band ben più note. Tutto qui. Have a nice trip è il titolo del vostro disco di esordio. Quale significato avete voluto dare a questa frase? È sempre quello il problema. C'è un perché, ed è quello che fondamentalmente ritrae il nostro primo disco, e quindi per noi è un viaggio partito da tempo, e quindi è la nostra prima esperienza discografica, e credo che aprirà le porte a numerose altre uscite discografiche, quindi se vi abbiamo stufato con la prima, mi dispiace. Vi abbiamo voluto bene comunque. Ad ogni modo è un nostro viaggio che non ha nulla a che vedere con viaggio, mushroom, funghi, come qualcuno può credere. Pensate, no? Sempre male. Si pensa sempre male, anche se le facce possono farlo pensare. Io sono astemio. Lui è astemio addirittura. È una bella cosa. Il fatto che poi guido io però, e non capisco perché lui è astemio e guido io. La macchina è la sua. È terrificante. Comunque non ha nulla di che, insomma. Il significato era un viaggio che noi facciamo percorrere a chiunque nella nostra musica, nel nostro mondo, e non ha alcun che di, come dicevo prima per quanto riguarda il nome, di trascendentale. Tutto qui. Nel 1970 gli ex Small Faces, orfani di Stevie Marriott, reclutano Ron Wood e Rod Stewart per formare i Faces, hard blues band, nota per le sue trascinanti esibizioni live e per gli eccessi alcolici dei singoli membri. Nel 1971 la band pubblica il secondo lavoro long player, da cui ci sentiamo Bad Ruin. Recognize your son. Recognize me. me now. Radio won't recognize me now. Hello, sister, you won't recognize me now. Mother, you won't recognize me now. Nonostante la band sia inglese, si denota la grossa influenza americana che poi troverà eredi come i Black Crowes e altre formazioni. Cosa ne dite? Beh, diciamo che quando insomma si parla di questo sound, lo sposalizio con il suono americano, l'influenza americana, penso che sia chiaro e ovvio. E quindi non mi stupisco di ciò, anzi credo che sia stato un arricchimento per la band riuscire ad avere questa tipologia di sound che andasse anche al di fuori di quelli che erano i recinti di casa. E poi ovviamente nascono queste band come i Black Rose, delle quali insomma siamo parecchio affezionati, che ripercorrono questo suono che fondamentalmente è gradevole ed è un mix di quello che possono essere varie influenze, tra queste anche quelle americane, blues o comunque questo suono un pochino più inglesotto. Tutto qui. Vostre influenze musicali quali sono e quanto sono importanti nella scrittura delle vostre canzoni? Ma Britney Spears. Britney Spears ci piace parecchio, anche la, David Guetta. David Guetta io lo apprezzo. No, allora è fondamentale, sono fondamentali la nostra vita vissuta, la musica che abbiamo ascoltato, tutto ciò che riguarda comunque le strutture. Abbiamo un'influenza che è chiara, visibilmente chiara, che viene comunque da Albione, ok? Quindi parliamo sempre di questo rock inglese dagli anni 60 in poi. E oggettivamente abbiamo grandi influenze da parte dei Kings, degli Who, dei grandi della musica degli anni 60-70, però abbiamo forti influenze specialmente dagli anni 90, come possono essere gli Oasis, eccetera eccetera. È ovvio che per ogni artista per creare qualcosa di buono deve aver ascoltato qualcosa, non si può creare nulla dal niente. Certo. E quindi noi abbiamo preso spunto da quelli che sono per noi questi grandi miti e queste, comunque queste luci, tutto qui. Chiudiamo allora la seconda parte con gli Who nel 1974, dopo aver trovato una nuova via nel rock duro, la band registra il disco By Numbers. Non si tratta di un loro capolavoro, ma tra i pezzi forti c'è questa Success Story che ora andiamo ad ascoltare. Poi sarà la volta di sentire sei canzoni tratte dal disco dei The Oracles, Have a Nice Trip. Rimanete in ascolto. Get a big flashy car and a house for my mom. to make our latest